Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Dopo 40 giorni, in cui l'avevo letteralmente adottato, ci salutammo commossi e ci scambiammo i numeri di telefono e gli indirizzi. Cominciò una corrispondenza epistolare dove mi informava dei suoi progressi negli studi e infine del conseguimento della laurea con il massimo dei voti. Mi chiamo Mariella, abito a Palermo, ho 62 anni, ho lavorato 35 anni in banca, adesso sono pensionata e sono sposata da 37 anni e ho un figlio che fa l'avvocato. Ci sono queste due famiglie che hanno un figlio nello stesso giorno, anzi una figlia nello stesso giorno, ma non nello stesso giorno, proprio nello stesso momento, quasi nella stessa ora. A un certo punto le due famiglie, cioè le mamme con i relativi papà, una delle due famiglie ha già due figli, l'altra invece è la prima figlia che arriva. Arriva un momento in cui lasciano l'ospedale e tornano a casa, passano le settimane, passano i giorni, passano gli anni e queste famiglie crescono ciascuna con la propria figlia, con la propria nuova figlia, una, quella che ha già due figli, e invece con la unica figlia, l'altra famiglia. Le bambine non assomigliano moltissimo né al papà né alla mamma, in nessuno dei due casi. Siamo in Sicilia, siamo a Mazara del Vallo. Quando compiono 3 anni, la nonna della famiglia, quella che ha 3 figli, va a prendere i figli a scuola e si vede portare vicino ai due figli più grandi, ai due nipoti più grandi, la nipote che non è la sua. E quindi a quel punto lei dice: no, guardi, la maestra, lei non è mio nipote è un'altra, è bionda. E la maestra gli risponde: ma è impossibile, è identica a loro due, non può che essere sua sorella. Da lì parte un tarlo che rode nella testa prima della nonna, poi dei genitori ovviamente, fino a che non incontrano questa bambina all'asilo, si accorgono che la bambina assomiglia moltissimo al papà, che qui però non dovrebbe essere il suo papà, decidono un incontro con la famiglia di questa bambina e si accorgono che le due bambine sono identiche al papà e alla mamma dell'altra famiglia, e a quel punto è il delirio più totale. Capiscono che c'è stato uno scambio di identità, solo che le bambine hanno 3 anni adesso e siamo sempre in Sicilia, siamo verso la fine degli anni 90. A quel punto intervengono gli psicologi, cercano di fare chiarezza e viene fuori che è vero, le due bambine sono state scambiate nella culla, hanno la stessa età ma non si assomigliano per nulla. Le bambine quindi tornano ciascuna nella sua famiglia naturale, ma le cose non funzionano, quindi tornano indietro di nuovo, c'è uno scambio che dura qualche mese, fino a che con l'aiuto degli psicologi e degli assistenti sociali le due famiglie si ricompongono, le due bambine vanno ciascuna nella propria famiglia naturale e così le cose iniziano a funzionare. Sono passati 15 anni, quelle due bambine adesso vivono con la loro famiglia naturale, ma queste due famiglie sono diventate praticamente una sola, loro due sono sempre insieme, sono compagne di banco e a Mazara del Vallo, dove vivono, le chiamano le gemelle. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, quella storia che vi ho raccontato è successa davvero qualche anno fa in Sicilia, esattamente a Mazara del Vallo, e parla di diverse cose, parla di due bambine che vengono scambiate nella culla, parla di identità e parla anche di famiglie naturali e non, parla del fatto che appunto delle volte possiamo appartenere a una famiglia che non è la nostra, non è la famiglia di sangue, intendo dire. Ci sono 1000 famiglie che si compongono intorno a noi, oltre a quella da cui proveniamo, che sono famiglie create dagli amici, create dalle parentele più ampie, create da persone che magari ti accolgono in qualche modo nella loro vita e a quel punto diventano in parte la tua famiglia. 349-238-6666, sono le 16:12 minuti in punto, questa è Voi Siete Qui, siamo in diretta dagli studi di Milano e oggi raccontiamo la storia di Maria e di Rafael, che in qualche modo diventa suo figlio, nonostante la gelosia del suo figlio naturale. 349-238-6666, sul profilo Facebook di Voi Siete Qui, che è Voi Siete Qui Radio 24, Micaela mi scrive: caro Voi Siete Qui, la mia famiglia americana in Florida, dove ho passato un anno come exchange student nel lontano 86-87, ancora oggi parlo di mom and dad, amicizie e legami che non conoscono i segni del tempo. 349-238-6666, esattamente una cosa così, cioè non deve essere tua mamma, non deve essere tuo padre per forza, per volerle bene e per fidarti di loro in una maniera che va al di là di un legame di amicizia o di vicinanza. La famiglia che non è la vostra. 349-238-6666, questa è la storia di Maria. Nel 1992 la banca in cui lavoravo viveva fiorente e organizzava stage in collaborazione con la facoltà di economia di tutto il mondo per studenti dell'ultimo anno. Io ero un'operatrice interbancaria e quindi il mio ufficio era sempre la giusta allocazione per questi giovani. Un giorno di primavera arrivò un ragazzo polacco, Rafael, che ci colpì per il suo stupore poco dissimulato verso il mondo capitalistico che vedeva per la prima volta. Ricordo per esempio che gli chiesi che cosa avesse fatto nel suo primo weekend a Palermo e lui candidamente mi rispose che aveva visitato ammaliato i supermercati. Fu subito adottato da tutti e in particolare da me, che gli insegnai i rudimenti del mercato delle lire e le operazioni finanziarie in titoli. Dopo i 40 giorni ci salutammo commossi, ci scambiammo numeri di telefono e indirizzi. Cominciò una corrispondenza epistolare dove mi informava dei suoi progressi negli studi e infine del conseguimento della laurea con il massimo dei voti. Ho avuto una decina di studenti e con soltanto due ho mantenuto rapporti negli anni successivi, ma Russell è stato sempre quello del mio cuore. Un anno dopo mi scrisse che a Cracovia una banca avrebbe potuto assumerlo, ma richiedeva uno stage sui titoli di Stato e le relative operazioni finanziarie presso una banca europea. Come potevo aiutarlo? Con l'aiuto del mio direttore scrissi una nota al direttore generale, con cui gli chiedevo espressamente che mi spedisse Rafael per fare uno stage, guarda caso proprio sui temi che gli venivano richiesti. E gli assicurai che le spese dell'alloggio e del vitto sarebbero state a carico mio. Riuscì nel mio intento e Rafael tornò. Due mesi di intenso lavoro e la sera, a casa mia, ospite coccolatissimo da tutta la famiglia. Conclusione, fu assunto e oggi è un giovane rampante funzionario di una grossa banca europea. È sposato e ha una bimba. Continuiamo a sentirci e due anni fa è tornato in Sicilia con la famiglia. Lui mi chiama la sua mamma italiana e io sono molto orgogliosa. La mia banca non esiste più. È stata chiusa a causa di bieche logiche politiche che hanno saccheggiato il credito nella mia sventurata regione. Ma mi piace pensare che qualcosa sia rimasto a germogliare, anche se tanto lontano da qui. Non ho conosciuto la sua famiglia di origine, ho visto le sue foto, ho visto le foto del suo matrimonio, della laurea, ma fisicamente no. Prima o poi andrò a Cracovia, anche a Katowice, perché lui è di Katowice. Mi chiamo Mariella, ho 62 anni e sono in pensione da 5. La mia banca era la Cassa Centrale di Risparmio Vittorio Emanuele, che è stata assorbita dal Banco di Sicilia, assorbito da Medio Credito Centrale, che è stato assorbito da Banca di Roma, che è stata assorbita da Unicredit, da cui sono andata in pensione. Vivo a Palermo e sono felicemente sposata da 37 anni con un compagno di scuola che poi è diventato collega all'università e collega in banca. Ho un figlio che fa l'avvocato e che forse è un po' geloso di Rafael, il mio figlio polacco. E io sono qui. È una bellissima signora Mariella, con i capelli biondi e un grandissimo sorriso a tutti i denti. È in un posto che immagino essere sulle colline o sulle montagne siciliane, alle sue spalle si vede il mare, c'è un sole e una luce che c'è davvero solo da quelle parti d'Italia. Pronto Mariella? Pronto, eccomi. Buongiorno, come stai? Buongiorno, bene, bene, bene, hai letto la mia lettera. Dove ti trovi esattamente? In questo momento sono a casa mia, qui a Palermo. Sei a casa, in che zona di Palermo abiti? Abito in Via Lazio, nella zona di Via Lazio, una zona nuova residenziale. Sei nata a Palermo, sei palermitana? Sì, sono palermitana, anche se ho origini nella provincia di Messina, ma sono palermitana. Mi piaceva come raccontavi il tuo rapporto con tuo marito, conosciuti a scuola, colleghi in banca, sposati da quanti anni, Mariella? 38 ottobre. 38 ottobre, beh, innanzitutto auguri. A 40 si festeggia? Si festeggia a qualcosa? Ma noi festeggiamo ogni anno, guarda, te lo dico sinceramente. Okay, è un miracolo. Cosa fate quest'anno? Cosa fate? Dove ti porta tuo marito? Quest'anno penso, abbiamo fatto un bellissimo viaggio negli Stati Uniti da poco, quindi quest'anno ci manterremo qui. insomma, vi fate andare bene il viaggio negli Stati Uniti come viaggio per le nozze. Invece Rafael, quando è che l'abbiamo sentito l'ultima volta? Allora, l'ho sentito proprio ieri, perché sapevo che, l'ho saputo da poco che voi mi avreste chiamato, l'ho saputo l'altro ieri, e l'ho chiamato e gli ho detto: guarda Rafael, la nostra storia è diventata importante perché ci chiamano. E lui, siccome è molto pedante, quasi quanto il mio figlio quello naturale, sì, mi ha detto: guarda che hai sbagliato, perché la banca che mi richiedeva non era quella di Cracovia, ma era quella di Katowice. Vabbè, insomma, perdoneremo questo piccolo errore. Invece quindi penso che ci stia ascoltando dalla porta. Beh, benissimo, allora salutiamolo comunque, certo, Rafael, certo, che ovviamente parlerà italiano benissimo. Parla l'italiano benissimo, infatti io volevo, questo non l'ho scritto nella lettera, volevo puntualizzarlo. Lui è venuto parlando bene l'italiano, okay, perché in quel periodo la nostra ambasciata italiana, con la scusa di insegnare l'italiano ai ragazzi, li, sì, faceva andare in ambasciata e li faceva mangiare. Ah. Gli dava loro la colazione e anche cosine da portare a casa. Ecco perché parlava italiano. Quindi già, esatto, già conosceva la lingua per quel motivo lì. Sì, sì, sì, sì. Mariella, invece mi racconti un attimo la storia che sembra contortissima della tua banca, la Cassa Centrale di Risparmio Vittorio Emanuele. Ammetto che sono andato a cercarla su Google perché non ne sapevo dell'esistenza. Allora, la Cassa Centrale di Risparmio era il secondo istituto di credito della nostra regione. Ok, dopo il Banco di Sicilia, immagino. Dopo il Banco di Sicilia, sì. È stata posta in liquidazione nel 97. Ingiustamente, noi avevamo un legame quasi affettivo, come dire, affettivo, sì. Un'altra famiglia, insomma, si parla di famiglie allargate. Era un'altra famiglia. Pensa che questa banca ai tempi, nel 90, faceva arrivare ragazzi da tutto il mondo, anche dall'est. Certo. Cioè, era veramente era avantissimo la Vittorio Emanuele. Sì, sì, sì. E poi niente, è stata inglobata. È stata inglobata per il gioco delle scatole cinesi, che noi sappiamo, e ha distrutto quasi completamente il credito in Sicilia. Mariella, tu sei una di quelle pensionate che, insomma, a cui manca un po' il lavoro e invece te la godi. Mi sembra che te la godi. No, me la godo, ho dato e adesso me la godo. E adesso ti prendi. Mariella, se non sono indiscreto, come passi una tua giornata? Allora, ho una mamma di 95 anni che molto mi assorbe. Ok. E poi d'estate vado molto al mare. Oggi sono andata al mare, ho fatto un bagno bellissimo. Che tempo c'è? A Mondello vai al mare? Sì, a Mondello c'erano 30 gradi. Oggi è uno spettacolo, il mare è uno splendore. Benissimo. Mariella, mi fai un piacere, visto che non sono tantissimi che ci scrivono dalla Sicilia, su che frequenza si prende Radio 24 a Palermo? Allora, a Palermo non si prende granché bene, io la sento in streaming soprattutto. Ok, la famosa frequenza in streaming che, diciamo, si prende un po' dappertutto, tramite un bel wifi e un bel computer, oppure un ottimo... Anche un qualsiasi iPhone, perché ad esempio, ma tu sei una donna, insomma, hai 62 anni, ma è come se ne avessi 20 in realtà, da un punto di vista digitale. Io comunque... sì, ma è stato il mio primo lavoro. Io, e poi sono un'appassionata di internet, continuo a guardarmi anche i titoli ogni mattina. Mariella, scusa, sì? La segui ancora la finanza? Ti interessa? Sì, continuo. Anche perché avrai soldi investiti, immagino. Sì, quei pochini soldi che ho ce li ho investiti. Prima di salutarti, abbiamo parlato di Rafael, però dimmi due cose anche su tuo figlio. Mio figlio è un uomo veramente coraggioso, un ragazzo coraggioso, perché ha scelto di rimanere in Sicilia. Come tu sai, tutti i ragazzi sono andati via. Ho molti amici, sì, che sono venuti via, e che sono al nord. E lui invece è rimasto qua, lottando, fa l'avvocato, è un civilista e devo dire che va molto bene. È l'orgoglio di tutti noi. A che età l'hai mandato via di casa? Sfatiamo questo mito. Sì, è andato via di casa 6 anni fa. Quindi a 30 anni. A 30 anni. Vabbè, insomma, per la Sicilia, insomma, diciamo, per l'Italia, mica per la Sicilia, per l'Italia è una buona età, direi. Sì, no, è andato via a 30 anni, 29 anni, 30 anni. Mariella, è stata una ventata di vento del sud la chiacchierata con te, grazie, è stato un piacere. Grazie, ti ringrazio e in bocca al lupo. E anche a tuo marito, tutto sommato. Certo, poveraccio. Non l'abbiamo citato, ma è troppo tardi per farlo. Salutalo tu. Grazie. Ciao Mariella, ciao, grazie. Arrivederci. Ciao, a presto. Ciao. Anche a me è stato insegnato che sono stati i primi mesi di vita a determinare il mio carattere. ma sono convinto che siano gli incontri che ho fatto in seguito a darmi le coordinate e un po' anche a indicarmi la rotta. E sono tante le famiglie che mi porto dietro, non so quella di sangue, ovviamente. La prima è stata quella di un mio compagno delle elementari. Tutti i pomeriggi, dai 7 ai 10 anni, li ho passati col mio amico Chicco. I miei e i suoi erano diventati genitori complementari. I suoi ci portavano al mare d'estate, i miei in montagna d'inverno. Poi ci sono stati i legami sportivi. Un anno abbiamo vinto il campionato provinciale con la squadra di calcio dei giovanissimi. Io ero uno dei più piccoli, ero una riserva e non mi sentivo un protagonista di quel gruppo, ma ero orgoglioso di farne parte. Al liceo poi ho conosciuto il teatro e tante persone che facevano parte della compagnia teatrale delle superiori le frequento ancora oggi. Poi sono venuto a Milano e i miei coinquilini sono diventati un'altra famiglia. Questo perché io, un po' come tutti immagino, abbiamo sempre bisogno di stringere rapporti forti e che all'apparenza siano duraturi. Tutti abbiamo bisogno di sapere che da qualche parte, sparse per il mondo, ci sono delle persone che stanno dalla nostra parte, che saprebbero, se fossero vicine, darci il consiglio giusto e sostenerci nelle nostre scelte. Con il passare del tempo sono cambiate tante cose, ma il mio punto di riferimento è rimasto lo stesso. Si chiama Claudietto. Nonostante il nome possa confondere, il Claudietto ha 60 anni, vive in Valsesia. L'ho conosciuto che faceva i panini più buoni del mondo in un bar, una ventina d'anni fa. Il bar però era della moglie, lui ha sempre fatto il meccanico di motoseghe, motoslitte e motoguzzi, ma si definisce prima di tutto un boscaiolo. È un uomo di montagna e sa fare tutto quello che si fa in montagna. Conosce le abitudini degli animali selvatici e sa prevedere che tempo farà guardando le cime delle montagne. Contrariamente a quanto si è abituati a pensare sulle persone che vivono in montagna, il Claudietto è un uomo di larghe vedute. Gli piace conoscere gente nuova, gli piacciono le persone che fanno cose diverse da quelle che fa lui, e la sua casa tutte le sere, da gennaio a dicembre, è aperta a tutti. È diventato un punto di riferimento un pomeriggio d'autunno di tanti anni fa. Era già buio, c'erano le nuvole basse. Dopo aver chiuso l'officina, mi propone di andare a funghi. A domani mattina, gli chiedo io. No, no, adesso, mi risponde lui. Saliamo dietro casa sua e in un paio d'ore di cammino torniamo con uno zaino pieno di funghi. Conosceva talmente bene quelle montagne che sapeva dove crescevano i funghi anche al buio. Mi indicava il sasso, l'albero, la gobba dietro cui crescevano i funghi con la stessa sicurezza con cui io saprei indicare dove tengo i vestiti in armadio. Da allora ho la sensazione che lui ne sappia sempre un po' di più degli altri e in tanti anni che lo conosco ne ho sempre avuto la conferma. E alla fine della storia di Mariella ho capito che 1. Il detto Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi è sempre buono, ma basta sapere chi sono i tuoi. 2. Se vostra madre si presenta a Natale con un uomo di 30 anni più giovane, non giudicatela subito male. 3. In Polonia, nel 92, evidentemente non esistevano i supermercati. 4. Le banche cambiano nome, ma le persone che ci lavorano restano sempre le stesse. 5. Tutti vorremmo essere adottati da una donna del sud. Senti che è un soplo la vita, che 20 anni non è nada, che febbrile la mirada, errante la sombra, te busca e te nombra vivere. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo che lloro otra vez. Volontario in Africa per 2 anni, praticamente adottato da una famiglia del posto con la quale trascorrevo gran parte della giornata, causa incomprensioni con gli altri volontari. Ciao, Claudio. E poi ancora, Stefano da Roma, facevo volontariato e 2 fratellini chiesero all'assistente sociale se potevano adottarmi. Morale, Alberto e Patrizia, dopo anni, sono ancora a casa con me. Grandi, fidanzati e felici. Io ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile anche questa puntata. Fate come Mariella, ascoltateci in streaming eventualmente oppure scaricateci in podcast quando, dove e come volete. Grazie a Paolino Corleoni, Tiziano Bonini e Margherita Ina. Grazie soprattutto a lei, grazie a Mariella, perché la storia di oggi era la sua e anche lei è un punto rosso sulla mappa. Mi chiamo Mauro, vivo a Fivizzano in provincia di Massa Carrara in Lunigiana, e la storia di domani è la mia e parla di un viaggio che abbiamo fatto insieme Steve Jobs e io proprio subito dopo essere stati licenziati perché è stata dismessa la divisione Macintosh in Apple 1985. Questa è la mia storia e io sono qui.